dentro, sento come un giorno risuonar. Vedo come allora la pianura tua laggiù, d'alte spighe bionde già, cielo d'Ungheria, soffir di nostalgia, con infinito amor io. Qual malia l'incanto del tuo sol risplende in me. Vorrei vederti un'ora sola, mio bel ciel, per meglio imprimerti nel cuore.